Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. 3380, 3384, 3419, 3424. Allora, in tribuna non si può gridare, in tribuna non si può gridare. È possibile far allontanare chi grida in tribuna? Grazie. In Italia si può rubare, scippare, rapinare, violentare di giorno, perché ti puoi difendere solo, forse, di notte. Il PD stava facendo bene, stava andando bene, arrivato Alfano, cattolico, no, facciamo solo di notte. Ma vacci te di notte a fare la ronda, a vedere quello che fanno e quello che non fa, è stato Alfano, che Alfano è un macello. Guarda, Alfano, voi ve lo dovete togliere di mezzo. Come se noi chiedessimo di dire al ladro, a quello che si trova in salotto: scusami, mi puoi dire se tu vuoi solo rubare o se per caso volessi anche menare? Perché così io so come mi posso difendere. Se io vedo un'ombra nel mio salotto, che è un ladro che vuole rubare nel mio salotto, io che faccio? Lo sparo e la sua vita vale il fatto che lui voglia rubarmi un televisore? Il ladrone arriva con la pistola, non con il pistolino. You know that women never really faint and that villains always blink their eyes. L'ultimo era Sammy Varin, nostro caro amico di Radio Padania. Io gli voglio molto bene, io a lui voglio molto bene, lui a me, storpiando pure il cognome, non tantissimo. Il ladrone arriva con la pistola, non con il pistolino. Qui c'aveva un orgasmo mentre... Vabbè. Signori, c'è questa storia della legittima difesa che, parliamoci chiaro, viene anche un po', come dire, dai, utilizzata in maniera pretestuosa. Adesso poi spiegheremo tutto. Non è che proprio il legislatore, ecco, perché adesso non bisognerebbe passare neanche questa cosa. Non è che il legislatore, cioè questa nuova legge, ha detto si può difendersi di notte mentre di giorno no. È chiaro, dai, l'ironia l'abbiamo fatta tutti, la faccio anch'io, l'ho fatta anch'io, la farò anch'io, no? Pistole ad acqua. Ovvio, ovvio, si sta parlando di quello, caro presidente De Luca. Tex Whitler. Eh no, sono due cose in contraddizione. Se vuoi fare la conduzione 4.0 di 24 mattino devi avere una linea coerente, mi raccomando. Missili termonucleari. Ma boh, nel giro di 30 secondi siamo passati dalle pistole d'acqua ai missili termonucleari. Stai facendo la persona incivile. Ecco, potresti dire questo a un ladro quando uno entra: stai facendo la persona incivile al ladro. No, in realtà, spieghiamolo subito, la legge prevede la non punibilità in caso di aggressione di notte, questo è vero, ovvero nel caso di introduzione con violenza, minaccia o inganno. E questo anche di giorno. E questo anche di giorno, di notte, Natale, Capodanno. Quindi se uno si introduce in casa mia con la violenza, con la minaccia o con l'inganno a mezzogiorno, a mezzogiorno, Salvini, Meloni, a mezzogiorno, ho detto, ma non c'è scritto così, ma a Allora, anche in quel caso si può, ci si può difendere. Poi dopodiché, oh, se pensate che sia solo di notte, come ho detto ieri, e entra mezzogiorno, confidate in un'eclissi di sole. Signori, ci sono in tangenziale ovest a Milano 9 gradi. Salutiamo Maurizio che ci dà questa preziosa informazione. Così come salutiamo Paolo che ci dice che a Visone 5 gradi, non l'animale, Visone. Da Treviso nessuno. Peter, non lo so, adesso magari qualcuno ci sarà, sono in tanti da Treviso. No, la specie semiacquatica, ecco, non è quella, Visone. Da Boves, Cuneo, 5 gradi. Anche a Sovere, Bergamo, 5 gradi. Ah, Visone e Alessandria, bene, grazie. Da Chieti, 13 gradi, Roberto, grazie. A Palermo, 15 gradi. A Castelfranco Emilia, Modena, 9 gradi. Un abbraccio forte da Laura, grazie Laura. A Crotone città 16 gradi, signori. Mentre Sandro ci fa sapere che ci sono 7 gradi sole a Basilea. E andiamo in Svizzera, e andiamo. E infine, in Brianza, nebbia, 5 gradi. Marco, mi spiace. Ma la mitica Costamagna, la biondona Costamagna, che dice le cose come stanno. Ma non viene più, zio Bono. Luisella Costamagna, come stai? Buongiorno. Zio Bono. Allora, come stai? Eri richiesta da questo ascoltatore. Poi ti passo il numero di telefono in privato, così puoi sentirlo. Tengo. Ci tieni. Lo saluto comunque. Certo, vedi, è sempre bello avere dei fans. funicolare Milan senza corrente, non so, deve essere un insulto gravissimo per questo ascoltatore. Allora, insieme a Luisella Costamagna, firma del Fatto, firma della Verità, firma della Sette, firma di qui, firma di là, basta? Firma degli assegni, perché siamo in bolletta. Firma degli assegni, attenzione. Insieme a lei abbiamo il nostro grande Vincino. Vincino. Eccoci. Come stai? Ma insomma, così. Che entusiasmo, ragazzi. Mamma mia. Eppure è venerdì, caro Vincino. Ho capito, ma... ce ne faremo una ragione. Vabbè. Allora, dai, apriamo il Parlamento, perché se vi volete, se volete sfogarvi. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Su questa cosa della legittima difesa, se l'avete capita bene. Tu Luisella avevi detto che una volta ci avevi raccontato che avevi anche avuto un'esperienza, come no? Sì, hai raccontato anche in TV. Ho capito. Impulso ad armarsi, perché in campagna, diciamo che avevo il padre cacciatore, quindi avevo i fucili, dopodiché sono assolutamente contraria, ma il nodo vero in questo momento è fatto bene a specificare che non, adesso non sappiamo se siamo giustizieri della notte o mezzogiorno di fuoco, ma alle 6:30 del mattino, vivendo io un giusto turbamento come prevede la legge per la licenza a sparare, rientrano nella notte, nel giorno, non lo so. Mettere mano alla pistola oppure no? Però vedi, quando nella norma c'è scritto che basta che uno entri con la minaccia, lì non c'è specificato. È certo. Lì quello vale tutto il giorno. No, ma è qualcosa che ne ha specificato, dopodiché questa è una cosa delirante. Sì, sì. No, la cosa per me strana e geniale, in un certo senso, è che Renzi, che ormai detta l'agenda politica, è tornato segretario del PD, detta l'agenda politica e l'agenda soprattutto ai direttori di giornale. Cioè, il titolo... Vabbè, ma quello lo faceva anche prima, più che... Ho capito, ma almeno era presidente del Consiglio, no? Legittima difesa, primo sia la legge, ma Renzi la boccia. Titolo di apertura del Corriere della Sera. Ho capito, ma Renzi la boccia. E invece, ma Renzi, cioè, non so se avete capito, ma Renzi la boccia, segretario del PD. Vabbè, ma ha già fatto la manovrina, ha stabilito con tutte le priorità che abbiamo, ha stabilito cosa ci doveva essere, cosa non ci doveva essere, insomma... continua a governare. È un po' così, caro Vincino. La cavalcata di Renzi continua, cioè, non assolutamente so. Sì, assolutamente sì. Si è ripreso alla grande, è risorto dalla Consip in una maniera. Ed è l'unico politico che abbiamo oggi in Italia, perché dall'altra parte abbiamo solo scartini ignoranti, non laureati di quarto grado, insomma. Pluriomicidi, che ne so, niente. Pluriomicidi, ma dai. No, pluriomicidi e Grillo, dai, avanti. No, ancora non sappiamo. Noi non sappiamo se era ubriaco o drogato quando ha fatto l'incidente. Dai, basta. Non gli hanno fatto il sangue. No, basta. Assolutamente. Vabbè, dai, sono passati anni. Ma è grave. Ma è una cosa. Ho capito. Okay. In America non passerebbe questa cosa. Sì. Niente, siamo partiti oggi venerdì così, insomma. Vabbè, ma dai, adesso no, ma lui ci impiega 3 secondi a dire Grillo. Grillo, lui ci impiega 3 secondi. No, per quando diceva ignoranti non laureati, allora, non so, io come mi sei materializzata un'immagine, però non lo dico. A 26 anni diventa deputato, no? Eccolo, cioè, non mi sono laureato perché da deputato. Scusa, se ti lavorare già eri fuori corso di 4 anni, stavamo parlando di Renzi e legittima difesa. Poi ti faccio parlare di Di Maio, dai. Sì. Ti faccio parlare di Di Maio. Questa legge è una stronzata immane. Sarebbe impedire al Parlamento di fare leggi in finale di legislatura. Esatto, bravo, diciamolo, perché stiamo parlando di una legge che non sarà mai legge. Questa è la questione, italiani. L'altra questione Luisella, non sarà mai legge questa legge, legge. Ecco. È una cosa delirante, peraltro, vabbè, a parte che siamo in finale di legislatura dal 2013 praticamente, sì, però abbiamo un po' di priorità, diciamo, in questo momento, dalla disoccupazione all'11,7%, la manovrona che ci sarà in autunno all'Italia, i casini delle banche, MPS, tutte queste cose, ci preoccupiamo di fare questa legge che non serve assolutamente a nulla, mentre siamo ancora alla ricerca. Io vorrei ricordarlo, perché tu dovresti fare il conteggio come facevi sulle province. Sì, no, lo faccio ancora. Giorni sono passati dalla presunta cattura che dovevamo fare di Igor. Ma ragazzi, Igor, ai furti, Igor, l'assassino del barista di Budrio, mentre invece ancora gli abbiamo dato il nome al ciclone, no, l'altra settimana. Ma sai che infatti io l'ho detto, Igor Fracchia, la belva umana Igor, faranno delle telenovele, faranno dei film. Vorrei ricordare a Vincino che invece Renzi è un finissimo intellettuale che non sapeva il Gottardo, i palestiniani, e li ha chiamati all'ONU. Stiamo parlando di finissimi intellettuali, quelli che sono stati al governo, ecco, e quelli del PD. Ecco la disfida 5 Stelle PD. Autorevole. La disfida PD 5 Stelle. La Mattia laureata con plagio, questo, nella tesi di laurea. Attenta. Che c'entra la Mattia, scusa. Dio, è l'unico uomo politico. No, dice, visto che hai parlato di ignoranti, lei dice non è che per ignorante sono tutti ignoranti. Nessuno al mio livello di cultura, lo so, però, come dire. questo si sa, nessuno al livello di cultura di Vincino, questo è il principio. Su questo siamo tutti d'accordo. Però Vincino, Questa legge si chiama Igor, l'hanno fatta apposta per quello, ha detto bene la Costamagna, no? La legge Igor, così, con la frustrazione di avere messo 30.000 poliziotti, carabinieri, esercito, e non essere riusciti a prendere questo disgraziato qua, no? Allora tentano di così, in maniera, il disastro è questo qua, fanno questa legge inutile che tra l'altro è impallinata subito da Renzi, no, perché la cosa geniale è questa. Renzi ha detto questa legge mi fa schifo, sì, certo, gli sono arrivate 500 mail, 1000 mail di protesta, e Renzi subito dice e sconfessa, c'è l'algoritmo incorporato. ma è un gioco delle parti in realtà, scusate. Ho capito, ma cosa fanno in Parlamento il gioco delle parti? Su questo a dire cose di destra, ormai dici solo cose di destra, prende voti. Allora, questo tema della legittima difesa è un tema che parla alla pancia, io direi un po' più giù della pancia, però quindi prendi voti. Le ginocchia. È il classico gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, no? Un po' come in Rai, che c'è il bastonatore per dare l'impressione che non la controlla la Rai, così fa fare la legge e poi dice no, così prende sia l'elettorato di destra approvando la legge che l'elettorato di sinistra dicendo cioè, attenzione. No, il sospetto di Luisella Costamagna. Renzi manda avanti i deputati per poi fare il poliziotto buono e dire: ma no, ma sono dei discoli che sbagliano le cose in Parlamento. Adesso arrivo io e sistemo tutto. Beh, bella questa cosa. È una tattica. Non credi che possa essere così? Beh, Vincino, funziona secondo me come tattica politica. No, come no? No, voi dite, no, a quest'ora guardo fuori e dico, vedo Andreotti, no. No, ecco, attenzione, il busto di Andreotti. Ah, no, aspetta, facciamo così. Andiamo al traffico, perché poi, Vincino, ti devo dire che c'è una intervista molto pregnante a Luigi Di Maio, tutta sulla politica estera, sulla stampa, discetta su Libia, Russia, ISIS, Stati Uniti, NATO, insomma, i nostri rapporti. Poi vorrei capire dal busto di Andreotti, ricordate che Vincino ha il busto in marmo di Andreotti sul terrazzo. Che cosa ne pensa di questo ritorno di Renzi, Andreotti? Chiediglielo, eh. Il vero problema di Milan è il traffico. Faircam Distribution. Spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com. Vi presenta... Scusa Milan, ma se io vengo aggredito di giorno, ma in casa è tutto buio perché ho le tapparelle abbassate, mi posso difendere o no? Muto. Ciao, ti volevo dire tante cose, caro Alino, ma non ho più la voce, me l'ho finita sul secondo gol di Higuain. Ciao! Milan, anche quest'anno, in gol! Il migrante è il nuovo individuo apolide del sistema capitalistico che non ha direzione, è in balia di un moto browniano nella società atomizzata del capitale dove viene spostato secondo la delocalizzazione di massa. Scusate, sono le 6:47 minuti, ma vorrei farli sentire bene. Vincino, tu eri attento in questo momento? Eri attento ad ascoltare il verbo del professor... filosofo Ingedott Lupman Fusaro. Allora, sei pronto? Te lo faccio riascoltare se vuoi. Sei pronto? È una definizione del migrante, attenzione, perché poi se ci dai una traduzione esattamente di quello che ha detto il professor Fusaro, senti bene. Il migrante è il nuovo individuo apolide del sistema capitalistico che non ha direzione, è in balia di un moto browniano nella società atomizzata del capitale dove viene spostato secondo la delocalizzazione di massa. Allora, il moto browniano, è il moto browniano, il resto l'hai capito, atomizzata, sì, atomizzata, ci siamo. Uso un linguaggio ottocentesco, insomma. Browniano. Però Luisella Costamagna, che sa tutto, il moto browniano. No, guarda, ti giuro, io mi sto spaccando la testa. Mi dispiace per Fusaro, perché sta diventando una macchietta. Io lo conosco indirettamente perché lui è stato allievo del mio professore di filosofia. E del moto browniano, cosa diceva il tuo professore di filosofia? No, io sono laureato in filosofia, però diciamo che lui ormai interviene, se non mette Hegel, ricordo Becco. Che può anche a bianco e nero, sì. E parlavamo di legittima difesa, il suo Hegel lo infila dentro, un riferimento filosofico, un hegeliano lo infila anche se parla di consumi e del prosciutto. Il moto browniano, guarda, il moto browniano, guarda, adesso il moto, col termine moto browniano si fa riferimento, Wikipedia, al moto disordinato delle particelle presenti in fluidi o sospensioni fluide, questa me la rivendo, divenne dal botanico scozzese Robert Brown, eh? È bello, però. Fa molto figo parlare fa così, dopodiché rischia di diventare una macchietta, sì. Ormai Fusaro. Il moto browniano, Che però c'è l'ascolta. Noi procediamo per moto browniano. Non io procedo per moto browniano tutte le sere quando bevo un paio di cocktail. Vincino poi è una Vincino, impazzita. Vincino. Adesso che mi sei fuori Di Maio, altro che browniano. È vero. Ma cos'hai contro Di Maio, Vincino? Ce lo vuoi dire una volta per tutte? No, niente. Il problema è questo qua. Siccome andrà al governo, questo sì, tutto, sì. Questa, ecco, e non ti farà ministro, come il sospetto che non ti farà ministro. Sarò all'opposizione, anzi in clandestinità praticamente. Va bene. Nei monti della Costa Magna andrò là io. Vabbè, ok. Come il mio prozio. No, che c'è? No, cos'hai detto della Costa Magna? Sui monti della Costa Magna. Ah, sui monti della Costa Magna si ritirerà, così farà la resistenza. Farà la resistenza. Nell'Alta Astigiano, come mio consiglio, farò la resistenza. La resistenza al Movimento 5 Stelle, farai questo. Bene. Allora, intanto io devo veramente. No, ma hai sentito, c'era molto livore nei miei confronti, cara Luisella, di tifosi juventini. Io sono molto felice che abbiate vinto e abbiate fatto il triplete, perché è un anno fondamentale che ricorderete nella storia, e quindi sono molto molto empatico nei confronti dei tifosi juventini come te, Luisella, perché il triplete è un qualcosa che non si scorderà mai. Quindi non sono bravi della tua sincerità, bravi, dopodiché noi andiamo a prendere la Champions. Bravi, sì, ma infatti l'avete presa, l'avete vinta, avete vinto la Coppa Italia, avete vinto il campionato, avete vinto tutto quest'anno. Aspettiamo un attimo, però Vabbè. Quest'anno è la volta buona. Oh, ecco, questa l'hai registrata, Peter. Ti prego. Ti prego. Sì. Va bene. Allora, e quindi insomma, no, non c'è detto cos'hai contro Di Maio, niente. No, non hai niente di... No, ho la mia tristezza per il governo, questo è il punto. È come dire un destino ineluttabile. È un destino ineluttabile. Vedo questo qua di fronte a noi. Io ho una parte, come dire, divinazione, la satira politica mi fa capire quello che succederà a volte. Certo, no? Io lo temo. Lo temi, lo temo. Andreotti cosa ha detto? Cassandra, vedo. Ma Andreotti che dice? Il busto che Renzi è l'unico uomo politico che abbiamo dall'altra parte. Renzi, Andreotti in corona Renzi, giustamente, cioè, da democristiano a democristiano direi che ci sta tutto questo. Adesso pappa e ciccia, diciamo. Andreotti. Io sono sempre stato. Capito, Luisella, Andreotti, cioè Andreotti, il busto di Andreotti. Comunista dei democristiani. Interrogato, diciamo. Il busto di Andreotti in corona Matteo Renzi, come unico. Ma certo, ma infatti il problema di Vincino veramente, ma di molta gente, è quello di un terrore alla ammazza la vecchia, veramente Roger Rabbit, sentono Grillo e non capiscono più niente, gli va bene la qualunque, e non si rendono conto che di quello che hanno di fronte, appunto, per apprezzare Renzi e considerare che i governi che abbiamo avuto adesso siano meglio. No, il governo è una schifezza, assolutamente. Con Banca Etruria di dei no, ma lui dice fa schifo il governo, cioè, però come quelli, no, però quello gli fa schifo di più. Però quello gli fa più schifo. Sì, è un po' così. Non è più il meno peggio. È un po' così, Vincino, no? Cioè, il governo ti fa schifo, ma quelli ti fanno ancora più schifo. Renzi ha fatto un errore gravissimo a fare questo governicchio con Alfano, con là si è rovinato completamente. Però come dire, con la vittoria ora a queste primarie, è ancora risolto da questo errore, ecco, che non lo rifarà più. Non lo farà più. Ma Vincino c'è una passione quasi paterna nei confronti di Renzi. Sì, ma ne ha scritto un libro, l'ha cavalcata, poi l'ha un po' sconfessato, però insomma è sempre lì, gira e rigira, anche lui da buon anarchico quando vede il democristiano. Ma è anarchico, è filo governativo. No! Filo governativo sarei tu. No, filo governativo volevi proprio rovinargli il venerdì. Filo governativo. Già di pessimo umore. No, filo governativo gli vuoi proprio male. Però io vorrei da voi, per concludere, la solita rubrica, lo psicologo di D'Alema. Dai, dobbiamo capire esattamente. Sentiamo un po' D'Alema che dice. Dai, che siamo in rapida conclusione. Di lei dice che è un traditore. Renzi. Io non voglio scendere su questo terreno. Peccato, perché Renzi ha abbandonato tutti i valori della sinistra, meno uno, lo stalinismo. Beh, questa non è male. Che problema, che sindrome ha da lei, ma cara Luisella? Ma non credo abbia la sindrome del risveglio. Mi sembra che è bella. Ho ripreso un altro passaggio dell'intervista dell'altra sera di Floris, l'ho twittata perché fa un'analisi del governo Renzi, di Renzi illuminata. Oh, dopodiché io dissi a Renzi all'epoca ancora di servizio pubblico, ben prima che si candidasse ancora alle primarie, che in realtà tra i due c'è una grande affinità, perché l'odio adesso e di quelli che sono stati molto affini, ci sono molte consonanti. Vediamo un po'. Lui di qualcosa di sinistra, Moretti lo diceva D'Alema, ma vale a maggior ragione per Renzi. Vincino, me lo dici la prossima volta la sindrome di D'Alema, perché, o ce l'hai in 10 secondi? No, basta, tienitela per te allora. Allora ringrazio Luisella Costamagna e Vincino, alla prossima. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it, col TH. Uè, Aline Mila, Eli e gestisci una lancia notizia, mia! 24 mattino. Le 7:18 minuti ci siamo, cari ascoltatori, questa è 24 mattino ed è la rassegna stampa, quindi leggiamo quello che raccontano i giornali che trovate in edicola, insieme a Peter Bescapè che è in regia, insieme a Lorenzo Nespoli in redazione. Forza, andiamo! Dai Milan, che è quasi finita! Che cosa, la Champions? È quasi finita. Allora, venerdì 5 maggio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, della notizia da cui partirò la lettura, 1 miliardo al fisco dai giganti del web, sotto tiro anche gli utili italiani di Amazon e Facebook, dopo l'accordo tra Google e l'Agenzia delle Entrate. La mancia di Google è il titolo del giorno su questa vicenda. Mentre la legittima difesa, è l'apertura del Corriere della Sera, legittima difesa, primo sì alla legge, ma Renzi la boccia. Legittima difesa, il PD diviso, Renzi, la legge va cambiata, e anche l'apertura di Repubblica. Mentre il giornale, nuova legge, non cambia nulla, indifesi come prima. Per il Fatto Quotidiano, i giustizieri della notte. La Camera vara la legge che peggiora quella di Castelli. Castelli era l'ex ministro della giustizia. Mentre per il quotidiano Il Messaggero, sparare ai ladri, crepe dopo il sì. L'apertura del Manifesto, mezzanotte di fuoco. Come vedete si concentra soprattutto sulla questione del discrimine notturno sulla legge. Queste alcune delle aperture. Voglio partire subito, come detto, dalla questione Google, del fisco, l'accordo siglato tra l'Agenzia delle Entrate e Google, con Angelo Mincuzzi che racconta tutti i dettagli a pagina 3 del Sole 24 Ore. Fisco a caccia di 1 miliardo sul web è il titolo. È un fiume di denaro, quasi 1 miliardo di euro, quello che dalle web companies sta per finire nelle casse del fisco italiano. L'accordo firmato da Google con l'Agenzia delle Entrate per 306 milioni di euro è il più recente in ordine di tempo, ma non sarà l'ultimo. In lista d'attesa c'è Amazon, il colosso delle vendite fondato da Jeff Bezos, al quale poche settimane fa la Guardia di Finanza ha contestato a Milano una mancata dichiarazione di imposte per 130 milioni di euro. E poi nell'elenco c'è anche Facebook di Zuckerberg, sul quale sono in corso accertamenti delle fiamme gialle, ma non ancora una quantificazione del conto da saldare. Alla fine del 2015 era stata Apple a svolgere il suo malgrado il ruolo di apripista, accordandosi col fisco per il pagamento di 318 milioni di euro. E tra l'altro questo riaccende la discussione sulla web tax. È il ministro dell'economia Padoan a intervenire, segnalando come l'accordo riveli che sia ragionevole porre alle imprese multinazionali un'alternativa legata all'accettazione di status di stabile organizzazione o meno. Lavoriamo a partire da questa evidenza che abbiamo. Io sono disponibile a ragionare in modo che si possa arrivare a provvedimenti che siano funzionali in questo senso. Questa è la dichiarazione del ministro dell'economia Padoan. Anche il Corriere della Sera dedica due pagine a questa vicenda. C'è anche una pagina interessante di Giuseppe Guastella che racconta come sono le ipotesi di tassare di quella che viene definita la digital economy. Il titolo di questo articolo si chiama Bit Tax, la via per battere l'evasione sul web. Ovviamente, racconta Guastella, i grandi operatori spesso pagano una quota risibile di tasse sui redditi prodotti in Italia, ma anche in altre nazioni, perché hanno allestito le loro sedi operative in paesi europei a fiscalità privilegiata come Irlanda, Olanda, Belgio, Lussemburgo. Paesi che in cambio degli enormi investimenti e dei posti di lavoro garantiti hanno abbattuto la tassazione sui redditi delle imprese, rinunciando a gran parte, se non addirittura in tutto, al gettito fiscale prodotto da aziende che fanno miliardi in tutto il mondo. Grazie al fatto che la maggior parte delle attività avviene su web e che questo non richiede la presenza fisica nel mercato in cui si opera, dato che si può interagire con i clienti da un paese diverso da quello in cui si trova l'azienda, queste imprese sono in grado di non ricorrere a quella che tecnicamente viene definita la stabile organizzazione. Certo, concetto ormai arcaico, scrive Guastella, perché è legato allo stabilimento fisico. Però questo non ha impedito appunto di fare questi accordi, a versare al fisco, come Apple e Google, appunto 318 e 306 milioni. Tra le varie proposte, il Corriere rispolvera quella del presidente emerito della Corte Costituzionale, Franco Gallo, che ha riproposto l'idea della Bit Tax. Di che cosa si tratta? Si tratta dell'applicazione di una tassa sui dati trasmessi via internet di 0,00001 centesimi di dollaro per ogni bit da applicare. Eccola qua, la bit tax, 0,501 centesimo di dollaro, perché ovviamente i bit che viaggiano sono tantissimi, e quindi ecco che la cifra è irrisoria, ma poi, secondo il professor Gallo, si potrebbe recuperare tanto denaro. Va bene, lasciamo la questione di soldi e torniamo a un altro punto che anche a me tormenta, anche a me. Guarda, tutti i giorni, mamma, quando ricevo le telefonate, io non ce l'ho con quelli che mi telefonano dei centralini, dei call center, non ce l'ho con loro, loro fanno il loro lavoro, però quando ti chiamano, quando stai mettendo la pasta in tavola, quando ti chiamano alle 9 di sera, alle 9 e mezza, alle 10, il sabato, la domenica, stai facendo il pisolino, stai qualsiasi cosa e ti chiamano. Quelli che ti propongono i contratti telefonici, gas, luce, acqua. Io vi voglio bene intimamente, lo so, voi fate quel lavoro perché è un lavoro e quindi bisogna lavorare. Però cosa succede? Succede che la legge sul telemarketing, c'è una grossa polemica sui giornali perché, come dire, molti giornali raccontano che il DDL sulla concorrenza ha anche una parte che doveva originariamente essere a tutelare i consumatori, essere a tutela dei consumatori. È nata così. Almeno l'intento è quello, dicono il Ministero Economico. Eppure c'è un emendamento approvato al Senato nel disegno di legge sulla concorrenza con voto di fiducia posto dal governo che, come racconta per esempio Mariolina Iossa sul Corriere della Sera, sembra spalancare le porte alle telefonate commerciali moleste. Questo almeno è il pensiero del garante della privacy, Antonello Soro, che ha espresso sconcerto e preoccupazione per questo emendamento, perché la norma elimina il requisito del consenso preventivo, liberalizzando il fenomeno del telemarketing selvaggio, e va in direzione diametralmente opposta a quella discussa in commissione al Senato. Al Ministero dicono non è così, l'emendamento è scritto e finalizzato a fornire un ulteriore strumento in difesa dei consumatori. Insomma, cosa prevede questo emendamento? Che gli operatori dei call center possano chiamare gli utenti presentandosi e dichiarando apertamente lo scopo commerciale della telefonata. A quel punto il consumatore ha possibilità di rifiutare l'offerta. Ma vi rendete conto? Ma la telefonata, la rottura di coglioni è già partita se parte una telefonata. Se la dico così. Se parte la telefonata, la rottura di scatoline in quel momento è già partita. Non mi interessa se poi chi chiama si qualifica come uno subito che vuole vendermi qualcosa e a quel punto io mi posso rifiutare. Perché io tanto già lo faccio, anche in maniera a volte sgarbata. Guardi, non mi chiami. No, ma tu, metto giù. Ma la rottura di scatole c'è già stata. Se stavo dormendo, se stavo mangiando, è già partita. Quindi come si fa a dire che a tutela dei consumatori il fatto che quando arriva una chiamata il consumatore può dire grazie, non mi interessa? Io non voglio neanche dire grazie, non mi interessa. Non voglio che mi chiamiate. Non è difficile da capire. Comunque, guardate anche qui il giornale. Le telefonate pubblicitarie saranno ancora più moleste. Titolo di pagina 21. Questo è il dato di fatto. In tutto questo c'è ancora la polemica vaccini, ben ampia e sviluppata sui giornali, anche perché il morbillo fa paura. Sono parole dell'Istituto Superiore di Sanità Ricciardi, il presidente. Siamo in piena epidemia, non sarei stupito se ci fosse anche un morto a questo punto. Leggo dal titolo del Messaggero Mauro Evangelisti. Siamo in piena epidemia, il mondo ci guarda interdetto e con allarme, non mi stupirebbe se con questi numeri si verificasse un decesso. Così Walter Ricciardi, presidente Istituto Superiore di Sanità, lancia questo allarme. E tra l'altro, lo trovate ovviamente su tutti i giornali, è il giorno in cui Repubblica cerca di evidentemente intervistare, non è un'intervista ma sono varie dichiarazioni, qualcosa di strappato, a Emanuela Petrillo. Chi è? È quell'infermiera accusata di avere vaccinato per finta migliaia di bambini. È l'infermiera di Treviso, tornata tra l'altro a vivere nella comunità gestita dal padre Gerardo Petrillo, emigrato in Veneto da Guidonia, a capo di una comunità, si presentava fino a poco fa come guaritore e pranoterapeuta. Grazie alle preghiere, al digiuno e all'imposizione delle mani, ancora oggi assicura di essere in grado di sollevare le persone dai turbamenti. Fondatore della famiglia di Nazareth. Questo è il padre di Emanuela Petrillo, infermiera che è accusata di cose gravissime. Le procure di Udine e Treviso le hanno consegnato avvisi di garanzia che ipotizzano i reati di falso, abuso d'ufficio e peculato. Rischia tra 4 e 10 anni di carcere, perché tra il novembre 2009 e il giugno 2016 avrebbe simulato, bisogna usare il condizionale, quasi 21.000 vaccinazioni su oltre 7.500 bambini e adulti. Per le aziende sanitarie i danni da recuperare superano il milione di euro. Cosa dice lei? Poche parole. Si sfoga con la zia. Titolo di Repubblica. Giampaolo Visetti è andato a Spresiano alla ricerca di qualche dichiarazione. Neanche io so più qual è la verità. Qualcuno deve spiegarmi, dice tramite l'avvocato, come avrei selezionato chi vaccinare e chi no, come avrei distratto tutti. Cosa significa eseguire l'operazione in una posizione strana? Nemmeno io so più la verità. Il problema è che sotto una montagna di accuse è difficile continuare a fidarsi anche di se stessi e dei propri ricordi. Bene. Alle 7:30 minuti siamo al momento invece dell'articolo che mi fa pensare della giornata. E guardate, basta il titolo di quello che leggete sulla verità, a pagina 19, l'articolo di Anita Riva, per non dover aggiungere neanche una parola, se volete. Violentava i bimbi della comunità, ora è chierichetto in una chiesa. È la storia incredibile di Rodolfo Fiesoli, mostro, il mostro del Forteto, così lo definisce in questo articolo Anita Riva, che con abusi e violenze perpetrate su ragazzi e bambini problematici ha scritto una delle pagine più nere della rossa toscana. Molti lo pensavano in carcere, vista la condanna in appello a 15 anni e 10 mesi per violenza sessuale e maltrattamento di gruppo, e invece vive libero nella tranquillità di un paese omertoso, a poca distanza da dove per anni e anni ha dato sfogo alla bestialità umana che lo contraddistingue. Prima protetto dalla politica, ora protetto da una comunità parrocchiale. Passa anche a prendere l'elemosina durante le funzioni in chiesa, nella chiesa di San Lorenzo a Diaceto, e il caso che definire imbarazzante è poco, viene raccontato dalla Verità. Ora lui ha 76 anni, aiuta appunto il parroco, grazie ai giudici, grazie alle amicizie della Rossa Toscana, così scrive la Verità, con una politica che è rimasta in silenzio di fronte a infinite denunce, questo succede, raccontato così, violentava i bambini, ora è chierichetto in una chiesa libero. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi cazzo! Alessandro Milan, la spunta blu dell'informazione. La spunta blu, ragazzi, drogati di WhatsApp. T'avessero detto la spunta blu 6 anni fa, ma la gente ti avrebbe guardato come i marziani, no? La spunta blu. Allora vi dicono, cos'è che dicono come soluzione? Metti i numeri sulla lista nera. No, non serve niente, blocco anche i numeri. Quando mi accorgo che chiama il call center, blocco i numeri, ma loro ne hanno 35.000 con radici diverse, quindi ogni volta ti chiamano da un numero diverso. È una battaglia, non vi interessa, lo so. Però vi interessa nel momento in cui tocca anche voi, la battaglia contro i call center. Allora, legittima difesa, questa è stata un'altra battaglia politica. Ieri, allora, dobbiamo fare un paio di premesse. Primo, molto probabilmente stiamo parlando di una polemica politica, come succede molto spesso in questo paese, che è una polemica politica basata sulla fuffa, perché questa legge non sarà mai legge, molto probabilmente. Primo, perché siamo in fine legislatura. Secondo, perché deve passare al Senato. Terzo, perché Renzi ha già detto che non gli piace, e sapete che Renzi, insomma, è tornato segretario del PD, ma ha detto un po' l'agenda anche politica del paese, e quindi non gli piace, la vuole cambiare. E poi la polemica è anche un po' fuffa, perché è vero, alla Camera è stata approvata la legge sulla legittima difesa con 225 voti a favore. E la legge, con il cambiamento all'articolo 52 del codice penale, prevede che in caso di aggressione di notte in casa o in negozio, in ufficio, ci sia, come dire, la reazione verrà considerata legittima difesa, sempre se proporzionale all'offesa, quindi con discrezionalità del giudice. E qui ci si è scatenati, di notte, e con tutte le battute che ho fatto anch'io, e se succede di giorno, e se, se succede a un metro notte, che per lui la notte è il giorno, o chi lavora di notte, come i tassisti, tante persone, gli infermieri, i medici, oppure se c'è è giorno ma ci sono le tapparelle abbassate, tutto buio, è da considerare notte oppure no, insomma tante ironie. In realtà anche qui c'è tanta panna montata, perché la legge prevede l'aggressione di notte in casa come elemento che è a favore della non punibilità di chi si difende, ovvero, ripeto, ovvero l'aggressione con l'introduzione con violenza, minaccia o inganno. E questo non di notte, anche a mezzogiorno, anche alle 2, anche alle 9 del mattino, alle 10, alle 11. Quindi se c'è un'introduzione in una casa con violenza, minaccia o inganno, anche di giorno, c'è la stessa questione della minore punibilità di chi si difende. Per cui la questione di ci si può difendere solo di notte è una semplificazione proprio da boutade politica all'italiana. Comunque, la legittima difesa, bagarre sulla legge, primo sì, ma per il leader PD non va. Ecco, tutti i giornali puntano già che Renzi, sul fatto che Renzi è contrario. Sentite l'articolo di retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 5. Quando gli è arrivata l'ennesima mail di protesta per la legge sulla legittima difesa, Renzi non ci ha visto più e ha chiamato Davide Ermini, l'uomo che per lui si occupa di giustizia in Parlamento, renziano, amico. Renzi, ancor prima di essere eletto alle primarie, aveva chiesto una legge che tutelasse chi si difende in casa propria, aveva sollecitato il partito a fare una cosa seria. Così non è stato, secondo Renzi, e quindi va cambiato al Senato. Va... Comunque, all'aggressione si può reagire non solo di notte. Questo è il titolo forse che rende più giustizia al Messaggero. Sicuramente altra questione, ma l'affronteremo con il magistrato Carlo Nordio, che oggi tra l'altro scrive bene un editoriale sul Messaggero. Sicuramente altra questione è che forse non cambia poi più di tanto rispetto adesso. Perché? Perché c'è una discrezionalità abbastanza ampia da parte del giudice. E quindi non sono modifiche molto, molto sostanziali. Vengono intervistati oggi, ogni giornale intervista, come dire, il protagonista di un episodio di cronaca. Repubblica va da Graziano Stacchio, il benzinaio. Siamo sulla buona strada, dice, intervistato da Paolo Berizzi. Una legge importante, ma lacune, va migliorata. L'altro giorno qui in zona hanno assaltato una villa alle 2 del pomeriggio. Che differenza c'è tra notte e giorno? Ecco, infatti la risposta è questa: nessuna, ma nessuna neanche nella legge. Se assaltano una villa alle 2, quindi entrano con la minaccia o l'inganno o la forza, si può reagire come se fossero le 2 di notte. E qui nasce l'equivoco, ma i giornali ci camperanno e anche la politica, per chissà quanti giorni, su questa cosa della notte. Allora, l'altra questione che rimane ben sviluppata sui giornali è sempre la questione dei migranti. Marco Ludovico racconta sul Sole 24 Ore, pagina 9, che c'è un report della Marina, non solo Frontex, ma anche la Marina Militare Italiana, così racconta il procuratore Carmelo Zuccaro, ormai diventato famoso procuratore di Catania, sui presunti contatti tra navi delle ONG e scafisti per il traffico di migranti. C'è questa documentazione consegnata dalla Marina Militare a Zuccaro. Tra l'altro il Senato ora convoca anche il PM di Trapani, perché a Trapani c'è un'altra inchiesta e si parla di un'indagine nei confronti di una ONG. Tutti all'inizio pensavano il MOAS di Regina Catrambone e suo marito, che abbiamo più volte avuto ospiti. In realtà la stampa fa sapere che l'ONG indagata non è il MOAS, ma è un'altra con sede nel nord Europa. Comunque Repubblica va a intervistare proprio Regina Catrambone, la filantropa finita sotto accusa. Giuliano Foschini realizza con lei un'intervista su Repubblica a pagina 6. Avete visto mai una principessa che salva una bambina? Io sì. Forse per questo non potete capire. E che c'entrano le principesse? I salvagenti con le principesse, quelli che qui si usano in piscina e in spiaggia. Ho visto bambini salvarsi grazie a quei salvagenti, altri morire perché non l'avevano. A parte questo inizio anche un po' filosofico, l'intervista. Signora Regina, chi siete voi? Io sono italiana, orgogliosamente calabrese, mio marito Chris americano, e insieme abbiamo deciso, avendone la possibilità, di dedicare un pezzo della nostra vita a salvare vite umane, a soccorrere chi, dopo aver subito violenze e atrocità, decide di scappare. Siamo stati costretti a occuparci di loro. Ma da chi? Dall'Europa, dall'Italia. Dovrebbe essere mestiere degli stati impedire a chi fugge dalle torture, alla ricerca di diritti, di morire in mare. E invece, purtroppo, questo non accade. MOAS, come le altre ONG, ha occupato uno spazio colpevolmente vuoto. Poi c'è la questione dei finanziatori, che non svelano, dice, siamo aiutati da gente come noi, che crede che salvare una vita umana significhi salvare il mondo, ma per privacy non possiamo fare nomi. Ma se ce li chiedesse un giudice, saremmo a disposizione. È vero che tra i vostri finanziatori c'è chi si occupa di difesa? Possibile che chi lucra nelle guerre da cui scappano i migranti finanzi chi salva i migranti? Tutte le donazioni sono eticamente controllate, risponde solo questo. Chi vuole, e con voi lavorava anche Robert Young Pelton. La sua società produce coltelli da guerra. Pelton è prima di tutto un giornalista apprezzato. Ecco perché lavora con noi, ha lavorato con noi. Ma avete mai preso soldi da scafisti? Assolutamente no. insomma, respinge le accuse, ma non fa nome per privacy. Abbiamo sempre rispettato la legge e in mare non puoi chiedere tu che tipo di migrante sei. Scappi da una guerra? Sei un migrante economico? Diavolo, sono persone in fuga. E anche sull'uso di un drone, costo 700.000 euro l'anno, risponde Regina Catrambone, è il migliore, è il prezzo giusto. Ma rifarebbe tutto quanto? Lo rifaremo, risponde al futuro. La polemica c'è, continua. E insomma, è giusto anche avere un po' di chiarezza. Caro Mauro Meazza, buongiorno, dove vi spingete oggi, o meglio questo weekend con i vostri colori nerazzurri a farci sorridere? Ma caro Alessandro Milan, ti sento particolarmente ilare e di buon umore, questo mi fa piacere, me ne compiaccio. Vabbè. Comunque noi andremo al mare, caro Alessandro. Al mare andremo dove? A Genova. Sì, andremo a Genova. In quale parte di Genova? Sampdoria? Nella parte genuana. Nella parte genuana. Mentre voi invece domenica sera, e io per questo ti faccio come di consueto i miei più cari auguri, riceverete la visita della Roma. Speriamo che sia una visita infausta, naturalmente, questo noi ci auguriamo. Però prima ricordati, domani devi assolutamente ricordarti di leggere Plus con il Sole 24 Ore, che sai che è il settimanale dedicato al risparmio, e tu i tuoi 2 eurini più altre somme, che ma forse bisognerebbe farti un po' un lavoretto alla Google, così come hai riferito prima sul Sole 24 Ore, per accertare dove è il tuo imponibile, caro Alessandro Milan. Comunque ti voglio segnalare dal Sole 24 Ore invece di oggi il sì della UE, diciamo un primo sì alla nostra manovrina. Ci hanno praticamente promosso, no, ma insomma abbiamo passato la prima fase, vediamo poi come va nella fase finale. E poi, importante, qui Radio Fisco, sì, c'è in arrivo una mini proroga per le comunicazioni IVA. Tutti i dettagli su norme e tributi, non posso dire di più, c'è la privacy, caro Alessandro, è tutto scritto su norme e tributi, naturalmente, di oggi. E ti segnalerei invece anche un'inchiestuccia da meditazione, un'inchiestone in realtà da meditazione, sui ricercatori, l'attraenza, la capacità di attrarre ricercatori da parte dell'Italia, che è bassina. Cioè noi esportiamo tanti ricercatori, ma ne attiriamo molto pochi di stranieri, solo 32. Leggi su commenti, sulle pagine di commenti oggi sul Sole 24 Ore. Oh, naturalmente già di Google abbiamo parlato e lo hai giustamente evocato. Io ti segnalerei anche, già dalla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, questo concorsino al Comune di Milano, 178 posti. Che succede? Ecco, si sono presentati, ci sono 50.000 candidati per 178 posti. Vabbè. Stringetevi. Un dettaglio interessante te lo volevo dire. Naturalmente ti rinnovo, come sempre, i miei più cari auguri. Hai preso la guida al 7:30 facile? No. Vabbè, allora adesso viene il sabato e domenica, non sai cosa fare fino a domenica sera, di fatto, perché fino all'impegno di domenica sera non sai cosa fare. Ti rinnovo gli auguri. Allora, se vuoi, è disponibile anche in formato ebook sul sito del Sole 24 Ottimo. Ore. Tutto ciò premesso, buona domenica. Anche a te. E soprattutto, traffico! Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Milana Lino, il gufaccio dell'informazione. Perché? Allora, domenica si vota in Francia, come sapete, tra Marine Le Pen e Macron. E chi vincerà? E questo lo staremo a vedere. Chi sarà il prossimo presidente francese? I sondaggi dicono Macron nettamente in testa. Ma oggi c'è una bella intervista, devo dire, di Aldo Cazzullo a Marine Le Pen. Pagina 3 del Corriere della Sera. Sono come Davide contro Golia. Quell'uomo è arrogante e oscuro. Parla così Marine Le Pen. Inquietante, lo definisco così, perché è freddo, rigido, cinico. Lui certo il problema della fila al pronto soccorso, della casa popolare, del dumping sociale non se lo pone, non conosce la Francia, non la sente, non la capisce, Scommetto che in questo posto non c'è mai stato. Quel posto da cui parla è un villaggio di 227 abitanti, dove neanche i cellulari prendono, villaggio in cui Marine Le Pen ha concluso la campagna elettorale e luogo in cui Aldo Cazzullo l'ha intervista. Probabilmente non sa neppure che esiste un posto come questo. Sul dibattito televisivo, dice Marine Le Pen, ero indignata, ma ho preferito sorridere piuttosto che far la faccia feroce. Però ero davvero furibonda. Quell'uomo è arrogante, maleducato, mi ha detto 10 volte che dico stupidaggini, poi che dico grosse stupidaggini, ma come si permette? Così gli ho risposto che il gioco del professore e dell'allieva non mi diverte. Senta, Le Parisienne ha scritto che la sua è stata un'allusione maliziosa all'amore di Macron con la professoressa di liceo. Non è assolutamente così, non mi permetterei mai di attaccarlo nel privato. No, questa è una risposta che dovrebbero scolpire tutti i politici, ma anche alcuni giornalisti italiani che da giorni stanno facendo dibattiti sulla questione dell'età. Sentite Marine Le Pen che dice di tutto di Macron, dice, ma sulla questione dell'amore nei confronti della moglie molto più. Age, non mi permetterei mai di attaccarlo nel privato, non l'ho mai fatto. È lui che mi ha attaccato sul piano personale e continuava a citare mio padre. Ecco, a proposito, che rapporto ha lei ora con Jean-Marie Le Pen? Zero. E zero resterà. Ogni volta che ha potuto danneggiarmi l'ha fatto. Quanti neonazisti ci saranno in Francia? 30? Li tira fuori in ogni momento. Ha dato un'arma ai miei avversari. Non a caso è stato invitato in TV in questi giorni più che in tutta la sua carriera. Senta Marine Le Pen, Fillon, invitando a votare il suo avversario, ha parlato della violenza e della intolleranza del Front National, il suo partito. Perché? E qui Marine Le Pen sbuffa, cerca un'espressione, un ragionamento e poi dice «perché sono delle merde, mi scusi ma non mi viene altro termine». Vabbè, Marine Le Pen che poi parla anche dell'Italia. Non conosco Grillo, so che il suo movimento condivide la critica a Bruxelles, ma con loro a Strasburgo è impossibile lavorare perché sono tutti pro-immigrazione. Invece ho diversi interlocutori in Italia, il primo è Matteo Salvini, gli ho detto fai una lista sovranista per la dignità nazionale, tu sei forte al nord, trovati un alleato al sud. E Marine Le Pen che dice sono Davide contro Golia e parla comunque una bella intervista sul... Corriere della Sera di Aldo Cazzullo. Vogliamo andare a cose un po' più di colore, di cronaca? Vi regalo questa. Signori, c'è una ricerca mondiale di cui parla Deborah Bonetti, fatta da accademici universitari di tutto il mondo, tra cui anche accademici della Cattolica di Milano. Qual è la distanza giusta da mantenere con un interlocutore? In Italia... è 93 centimetri. Coloro che invece mantengono la distanza più ampia sono i rumeni, 139 centimetri. Poi i norvegesi, 104 centimetri. Poi gli inglesi, 99 centimetri. Mentre noi, 93 centimetri, riteniamo che sia la distanza giusta, una distanza che però può scendere subito a 68 centimetri con un conoscente, e a 41 centimetri per un amico molto speciale, amico, amica. E, vabbè, signori, questo è teniamo le distanze, siamo inglesi, gli italiani sono tra i più appiccicosi. 68 centimetri tra noi e un amico. Attraverso questo studio si studierebbe antropologicamente quali sono i popoli più diffidenti e quelli che invece danno più confidenza. Va bene, siamo alla carta costa che non era questa, ma insomma quasi, quasi entrata. La carta costa invece è un'intera pagina dedicata ai 60 anni di Barbara D'Urso, che secondo Paolo Giordano sul Giornale è la nuova Democrazia Cristiana. Ma chi se ne frega?